sono parole senza scrupoli che fanno male quando prima o poi vanno a sbattere dentro noi. Io e te siamo arrivati quasi al limite di questo amore inevitabile, consumato dalla realtà. Compagnia.